Oggi interrogazione a sorpresa. Interroghiamo. Bravo Parrotto che ti offri sempre volontario, ma lo so che tu hai studiato. Dunque vediamo, interroghiamo Carbone. Carbone, chi è lui? Carbone 2. Lui è Eros. Carbone, che cosa sai di Eros? Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando Carbone vuoi. 2. Grazie di esistere. Eros è il dio dell'amore, è figlio di Ares e di Afrodite ed è nato da un uovo d'argento. Eros è un fanciullo eternamente giovane, dai capelli ricci, biondi, un corpo atletico ed ha due ali d'oro. Da bambino si costruì un arco con delle frecce e chiunque venisse colpito da queste frecce si innamorava seduta stante del primo essere che incontrava. Si racconta che a Zeus bastò guardarlo in viso per capire che questo fanciullo sarebbe stato per lui fonte di infiniti guai. E infatti Zeus è uno dei bersagli preferiti di Eros, che si diverte a farlo innamorare di continuo. Tra le dee lo ha fatto innamorare di Calliope, Cibele, Climene, Demetra, Dione, Dino, Echidna, Eris, Terea, Geto, Leto, Leucothea, Maia, Metide, eccetera, eccetera. Tra le donne mortali lo ha fatto innamorare di Alcmena, Nasitea, Antiope, Boetea, Calice, Callisto, Carme, Cassipea, Circe, Danae, Egina, Elettra, Europa, eccetera, eccetera. Ora, tutte queste donne non riamavano Zeus. Poveretto. Carbone 2. Il quale era costretto a grandi fatiche pur di possederle o con l'inganno o con la forza. Carbone, chi è lui? Carbone 2, lui è Zeus, è il re degli dèi. Con quel fisio lì? Sotto. La madre di Zeus è Rea, il padre è Crono. Zeus è sposato con Era, anche se è molto famoso per le sue frequentissime avventure extraconiugali, Con quel fisio lì. tra le quali si ricordano anche alcune relazioni omosessuali, Con quel fisio lì. come ad esempio quella con Ganimede. Ora, frutto dei suoi molti convegni amorosi furono i suoi numerosissimi e celeberrimi figli, tra i quali ricordiamo Dioniso, Apollo e Artemide. Tra i suoi molti poteri c'era quello di potersi trasformare in qualsiasi cosa desiderasse, come ad esempio nuvola, pioggia dorata, toro, aquila, cicala, funghetto prataiolo. Funghetto Sì, Pratajolo. e per mezzo di ciò seduceva ingannando coloro con i quali voleva copulare. Zeus è il dio del cielo ed ha come arma i fulmini. Sotto. Aia! Carbone 2. Ora ascoltiamo il grande Zeus. Dio bonino Eros, se sei più vecchio di Giafeto, ora siccome non hai messo né barba né capelli bianchi, pretendi di essere preso per un marmocchio, eh? Ero convinto che gli dèi parlassero greco. Io capisco il greco. Carbone 2. Somiglia parecchio a Crisanto. Ma che ti ho fatto che mi vuoi mettere in catene? Ti par poco, maledetto, tutto mi hai fatto fare. Toro, satiro, cigno, aquila. Funghetto Pratajolo. Sotto. Carbone 2. E di me non hai mai fatto innamorare nessuna. Allo stato naturale non sono mai piaciuta una donna. Sempre travestimenti su travestimenti. Faccio il toro e si innamorano del toro. Faccio il cigno e si incapricciano del cigno. Se poi però al momento di consumare mi pareso si pigliano un accidente. Zeus, scusami, sono donne mortali. Come possono sostenere la tua E allora com'è che Branco Giacinto ama Apollo? Ma Dafne Rolo rifuggiva sebbene lui avesse quei bei lunghi capelli e le guance lisce. Vuoi essere amato? Non scuotere l'egida. È lo scudo di Zeus. Parrotto, che cos'è l'egida? È lo scudo di Zeus. Bravo Parrotto, ottimo. Non scagliare tutti quei fulmini, fatti dolce, delicato, coi riccioloni sciolti e cinti dalla mitra. Carbone? Che cos'è la mitra? Carbone 2. E vestiti a modino di porpora con i calzari d'oro invece dei tuoni. Incedi armonioso al suono dei flauti e dei cembali. E allora vedrai che le donne ti seguiranno come a Dioniso le Io Menadi. queste carnevalate non le faccio. Sempre meglio che fare il cigno e il toro, no? No! E allora lascia perdere. Non vuoi amare? Non amare. No, io voglio amare, ma senza complicazioni. È solo a questo patto che ti lascio. Sì! Love. Love. Love. Oggi interrogazione a sorpresa. Interroghiamo. Bravo Parrotto che ti offri sempre volontario. Va bene, oggi interroghiamo te. era... Bravo, Parrocco. Oh. Era la moglie di Zeus, ma è anche sua sorella. No! Che sudici questi greci. Dalla loro unione nacquero, tra gli altri, Ares ed Efesto. Era è la dea del matrimonio e della fedeltà coniugale. La sua continua lotta contro i tradimenti di Zeus ha dato origine al tema ricorrente della gelosia. Ne è un esempio quello con Ganimede. Ora, Ganimede era il più bel fanciullo vivente e Zeus se ne innamorò a tal punto che si trasformò in aquila e lo rapì per portarlo sull'Olimpo a fargli fare da coppiere al posto di Ede. Ora, Carbone. Il padre di Ganimede si chiama Troio. Come si chiama la moglie di Troio? Se il marito è Troio, la moglie sarà... La moglie sarà Troa. La moglie di Troia è Troa. Brava era. 8. Sta Troa. Cotone 2. Ora ascoltiamo il dialogo tra Era e Zeus. Zeus, da che questo ragazzetto, il frigio Ganimede, l'hai rapito e l'hai portato quassù, tu hai meno attenzioni per me. Sei gelosa anche di lui, Era, di quel bimbetto così ingenuo e innocente. Io pensavo ce l'avessi solo le donne. Non mi parlare delle donne, bravo davvero, bel modo di fare, degno del signore degli dèi. Lasciare me la tua legittima sposa per scendere sulla terra per le tue tresche. Combinato in quel modo, poi, oro, cigno, satiro. Funghetto prataiolo. Ma almeno quelle donnacce se ne rimangono sulla terra. Ma questo bambinetto dell'Ida, cara la mia nobile aquila rapace, l'hai rapito e me l'hai portato quassù, e adesso vive con noi, tra gli dèi. Per mescere il vino, dici? Eri a corto di coppieri? Ebe, Efesto, sono in sciopero. E tu non sai prendere la coppa che ti porge senza prima davanti agli occhi di tutti baciarlo. L'omosessualità era una pratica normale in Grecia, faceva parte della paideia, il percorso formativo ed educativo dei giovani ateniesi. In pratica era una materia scolastica. Che sudici! Stavano avanti sti greci. E come ti piacciono quei baci. Tant'è che chiedi continuamente da bere anche se non hai sete. E talvolta addirittura lo fai bere dalla tua coppa, dal tuo stesso lato, e poi ce li bevi, così, così, così bevi e baci. E l'altro giorno tu, signore degli dèi, hai messo dal lato l'egida e il fulmine. Io so cos'è l'egida. Carbone, non interrompere, era Carbone 2. E ti sei messo a giocare agli astragali con lui. Carbone, che cosa sono gli astragali? Carbone 2. Gli astragali sono i dadi. È vero. Bravo, Parrotto. 8. Tu, grandiglione barbuto, giocare con un bambinetto. Ti ho vista, sai? Non sono mica cieca. E che c'è di male? Era baciare tra un sonso e l'altro un bimbetto così bello. Non è male, sai, godere insieme del bacio e del nettare. Beh, forte un paideia, eh? Carbone 2. Se tu gli permettessi di baciarti, capiresti quanto è dolce e non mi rimprovereresti più di preferirla al nettare. Beh, discorsi da pederasta. Non sai mai che io accosto le mie labbra a quelle di questo bambinetto frigio, molle ed effeminato. Non insultarmi l'Amasio, nobile Era. A me questo effeminato, questo barbaro, questo frigio piace. Sì, signora, piace assai più. Non mi fa parlare. Per quanto mi riguarda, te lo puoi anche sposare. Ma almeno ricordati le ingiurie di avvinazzato che mi fai per colpa di questo coppiere. Bisogna aver forse tuo figlio Efesto a servirci da bene zoppicando con quel muso nero di fuligine. Quello arriva a mensa direttamente dalla fucina, a volte ancora le tenaglie in mano, e io da quelle soditacce mi dovrei far porgere la coppa e magari anche dargli qualche bacetto tra un sorso e l'altro. Ma se neppure tu che sei sua madre lo baci volentieri con quel muso nero di fuligine. Lui sì che è il coppiere adatto al convito degli dèi. Quasi quasi rispedisco Ganimede sull'Ida, è troppo pulito. Con quelle ditine rose, quella maestria nel porgere la coppa e quei bacetti. Ti dà noia, eh? Più dolci del nettare. Per quanto mi riguarda, adesso anche il mio Efesto ti fa schifo, eh? Ma prima di lui ti giovavi nonostante lavorassi alla fucina. Guarda, eh? Era, così facendo fai solo del male a te stessa. A me ecciti la passione o la tua gelosia. Che sudici questi greci. Carbone 2. Se ti dà fastidio ricevere il calice da un bel fanciullo, fatelo portare dal tuo figliolo. Vorrà dire che Ganimede sarà il mio servitore personale e per ogni coppa mi farò dare due bacetti, uno quando me lo porge e l'altro quando si ripiglia il voto. Dunque prendete il manuale di mitologia e andate a pagina 168. Carbone, leggi il paragrafo 63. Issione, figlio di Flegia, Flegia, della stirpe dei Lapiti, dei Lapiti, riuscì a sposare Dia. Dia promise a suo padre Ioneo, ricchi doni nuziali, e invitò Ioneo ad un banchetto. Banchetto. Banchetto. banchetto. Banchetto! Ma il Sione scavò una fossa dinanzi alla soglia del suo palazzo con delle braccia incandescenti sul fondo. Ioneo vi precipitò e morì bruciato. Benché tutte le altre divinità giudicassero orrendo questo crimine e rifiutassero di purificare il Sione, Zeus non soltanto lo purificò, ma lo invitò anche alla sua tavola. Molto bene. Carbone 2. Dunque, il Sione riuscì a farsi dare in sposa Dia, promettendo a suo padre Ioneo molti doni nuziali. Ma quando Ioneo si presentò al palazzo di Sione, questi lo fece precipitare in un tranello mortale. Dunque, allora perché Zeus accettò di purificare il Sione? Perché con questa storia si vuole dimostrare l'infinita pietas di cui era capace il padre degli dèi. Pietas, ovvero sovrumana capacità di perdono e di amore verso gli uomini. Ora ascoltiamo il dialogo tra Ioneo e Zeus. Zeus, ma questo Sione che tipo è? Il Sione. Carbone 2. Era una brava persona. Era, o è? Era sei te. È una brava persona, era. Non starebbe con noi se non fosse degno della nostra tavola. Ah, invece era indegno, sicché non deve stare più con noi. Perché cosa ha fatto? È stato oltraggioso. Oltraggioso? In che? Mi vergogno a dirlo, tanto è stato sfacciato. Ma proprio perché è stato sfacciato e mi devi dire tutto. Ho capito. Ci ha provato con qualcuno. Con chi? Non indovini? No. Con me! Con me, Zeus, con tua moglie! No! Stai calmo, non ti agitare così! Non essere così sconvolto dalla gelosia! Io non capivo perché mi guardava così fisso e poi sospirava e piangeva di nascosto. E talvolta, quando dopo aver bevuto restituivo la coppa a Ganimede, lui se la faceva ridare e poi beveva e la baciava. Non c'era dubbio, erano segni d'amore. Io non ti ho detto niente anche perché pensavo che la smettesse con questa follia. Invece l'altro giorno ho superato il limite. Si è dichiarato. Piangeva e si rotolava per terra. Io mi sono dovuta tappare le orecchie per non sentire tutte quelle nefandezze. È per questo che te ne parlo. Puniscilo subito. Bravo Sione, ma proprio era, ti sei andata a comporre. Ma la colpa è nostra, era nostra. Abbiamo dato troppa confidenza a questi uomini, troppo affetto. Li abbiamo persino invitati alla nostra tavola. In fondo sono da scusare. Gli abbiamo offerto le prelibatezze celesti, le celestiali bellezze, te inclusa. Come facevano a non desiderarle. L'amore, si sa, esercita un potere violento anche su noi altri, figuriamoci su questi disgraziati. Quello ti mena per il naso, ti fa fare tutto quello che vuole, ma io lo so, caro mio, perché gli perdoni tutto, sai? Perché tu hai avuto una tresca con sua moglie. Alla faccia della pietas. Carbone 2. E ci hai fatto anche un figlio, Pirito. Pirito? Pirito, carbone 2. E basta, basta rimbangare queste ragazzate terrestri, basta era, basta, sai che Dio Lissione non lo punisco, no. E nemmeno lo faccio dal compito. Sarebbe scortese. Ma siccome è innamorato e soffre pene insostenibili, io un'ideuccia ce l'avrei anche. Vai avanti, ho paura che tu mi faccia una proposta oscena. No, il triangolo no. No, non l'avevo considerato. Perché non pigliamo una bella nuvola, la gonfiamo ben bene e la modelliamo a tua immagine. Così a festino finito, la mettiamo nel letto e lui ha pagato, non soffrirà più. Una bambola gonfiabile. Che sudici. Stavano avanti sti greci. Ma che dici? Che fate un malora chi desidera cose più grandi di lui? E che c'entra a letto lui, ci va la nuvola mia. Ma la nuvola è mia immagine. Io sarò svergognata. Esagerata, tu non sarai mai nuvola, né la nuvola potrà mai essere te. L'unica ad essere fregato sarà Sione. Come siete volgari voi uomini. Ma non credi che quando tornerà sulla terra racconterà tutto di essersi fatto Era, di avere codificato Zeus? E non credi che gli uomini, sudici e pettegoli, li credano? No, sta a vedere, sudici siamo noi. Carbone 2. Mi crederanno e come? Vai a raccontare che è stato con una nuvola. Vabbè, se dirà una cosa del genere lo scaglierò nell'Ade, lo farò legare una ruota e girerà con essa per l'eternità. Avrà un tormento senza fine, avrà. Lo punirei o no? No. Parrottiamo. Zot! Aia! Carbone 2. Parrottiamo. Ha! Banchetto! Oggi interrogazione a sorpresa. Interroghiamo. Carbone. Carbone, chi è lui? Era. No. Prima era. Carbone 2, riprova. Eros. No, Carbone 2, lui è Ganimede. Sti greci, sono come i cinesi, sono tutti uguali. Carbone, dimmi chi è lui. Ah, è Zeus. So. Ah. Ti piace proprio la paidea, eh? Carbone 2. Su via Ganimede, ora siamo arrivati, dammi un bel bacetto. Vedi che non ho più né becca dunque né artigli. Ah, appunto dico. Eri un'aquila un momento fa. Com'è che sei così cambiato? Ragazzo, non uomo né aquila fui, ma quello che hai davanti a te niente di meno che il signore di tutti gli dèi, trasformato in uccellaccio per l'occasione. Pan? Pan? Oh mio Dio, ma tu sei Pan? Com'è che non hai le corna sulla testa, i peli sulle gambe, la zampogna? Ma tu non conosci altro di all'infuori di Pan? No, in casa li siamo molto devoti, abbiamo che non sono stato, ogni giorno gli sacrifichiamo un capro. In effetti non gli somigli per niente. Sembri piuttosto un razziatore di schiavi. Con quel fisio lì. Carbone 2. E di Zeus, non ho mai sentito parlare. Di chi? Zeus, non ha mai visto sul Gargano l'altare a lui dedicato con l'eci della saetta. Gargano? Carbone 2, il Gargano è in Puglia, il Gargano è la vetta più alta del Monte Ida. Lo sapevo. Bravo, Parrotto. 8. Ah, sei tu. Ebbene sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, quello che tuona in continuazione, eh sì. quello che l'altro giorno mi ha grandirato addosso. Certo. Sì, sì, sì, ogni tanto mio padre ti sacrifica un capro. Ma senti, Zeus, ho la zeta, mezz'otto. Ascolta, ma io che cosa ti ho fatto perché tu mi rapissi? Perché guarda, io ho abbandonato il gregge, capace che a quest'ora i lupi ne hanno già fatto strage. E il mortale pensa ancora alle pepre! Prego? Da oggi starei sempre uno gli altri. Non mi riporterai sull'Ida? No. Mio padre mi cercherà. Ma non potrà trovarti. Si arrabbierà, mi darà un sacco di botte per avere abbandonato il gregge. E s'attacca. Senti, io sento già la sua mancanza. Facciamo una cosa, mi riporti indietro e io convinco mio padre di intensificare i sacrifici in tuo onore. Abbiamo una rete di 3 anni, una bella offerta votiva. Oh, benedetto figliolo, a queste cose gli devi dire addio. Ormai sei un abitante del cielo e da questo potrai fare un gran bene a tuo babbo. Invece di latte e formaggio mangerai nettare e ambrosia. E quel che più conta è che sarai immortale. Io farò apparire in cielo una bella stellina a te dedicata. Insomma, sarai felice. E se avrò voglia di giocare, c'è qualcuno qui della mia età. Oltre a me avrai anche un compagnuccio di giochi. No, il triangolo no! Carbone 2. Peccato, sta andando bene in paidea. E moltissimi astragali. Parrotto, che cosa sono gli astragali? Sono i dadi! Bravo, Parrotto. 8. Insomma, sì, felice, di addio alle ose del mondo. E cosa dovrò fare qui, pastore celeste? No, sarà il nuovo coppiere degli dèi. Ah, quello dovrei saperlo fare, a casa ero sempre io che servivo a tavola. Ma qui le pietanze sono celesti, mi si mangia solo il nettare. È più dolce del latte? Quando l'avrai assaggiato, bimbo, me lo dirai. E dove dormirà la notte? Dormiremo insieme, io, te... No, il triangolo no! Carbone 2, la geometria non è un reato. E per questo è tornato. Ma perché da solo non ti addormenti? Aia. Ma con te che sei così bello mi addormenterò meglio. E come la mia bellezza ti addormenterà? Essa in sé un dolce incanto che concilia il sonno. Ma veramente il babbo si arrabbiava sempre quando dormivo con lui. Diceva che russavo in continuazione. Pure. Carbone 2. E mi mandava a dormire dalla mamma. No. No, non ho il complesso di Edipo. Carbone, chi era Edipo? Carbone 2. Parrotto, rispondi tu, chi era Edipo? Quello del complesso. Bravo, Parrotto. Comunque, se mi hai rapito per conciliarti il sonno, hai preso un bel abbaglio. Io sono uno che si gira e si rigira. E noi gireremo e rigireremo insieme. E ogni tanto ti darò qualche bacetto. Ma fai te, io dormo. Vedremo, caro. Vedremo. So? Ah? Poseidone. Beh, vai avanti. Allora, diciamo subito che Poseidone, Zeus e Ade erano fratelli. Quando il loro padre Crono morì, i tre decisero di spartirsi il mondo. A Poseidone andò il mare, a Zeus il cielo, ad Ade gli inferi. Bravo, Carbone. Ti ha suggerito Parrotto. Carbone 2. Carbone, dimmi chi è lui. Zeus, è sempre stato Zeus. No, Carbone 2, lui è Poseidone. Dunque, Carbone, prima ci hai detto che Zeus, Poseidone ed Ade regnavano ognuno su una parte del mondo. Come facevano a parlarsi? Con dei messaggi. Chi portava questi messaggi? Un messaggero. Come si chiamava questo messaggero? Hermes! Parrotto, sei molto generoso, ma non devi suggerire. Carbone 2, Parrotto 8. Che sudisce. Carbone 2. Dunque, Parrotto, dimmi chi è lui. Tu Hermes, alzati in piedi e fatti vedere meglio. Lui è Hermes. Bravo Parrotto. Ottimo. Bravo. Dunque, Hermes è il figlio di Zeus e di Maia ed è nipote di Poseidone e di Ade. Da bambino è stato un fanciullo molto precoce. Durante il suo primo giorno di vita ha ucciso una tartaruga per inventare la lira e durante la notte ha rubato una mandria di buoi sacra ad Apollo. Come potete vedere, è chiaramente riconoscibile per il suo borsellino, per i calzari alati, per il cappello alato e per il bastone da messaggero. Nelle epoche più antiche la sua iconografia era ben diversa. Era immaginato come un dio anziano, barbuto e dotato di un fallo di notevoli dimensioni. No. Chi l'avrebbe mai detto? Che succede? Hermes era il dio protettore dei mercanti, dei ladri, delle prostitute e degli attori. Siamo una bella compagnia. Mamma me lo diceva sempre che il teatro è un ambientaccio. Carbone 2. Hermes, devo vedere Zeus subito. Impossibile, Poseidone. Tu annunciami. No, non è il momento, ti dico. È con Era? Figurati. No. Ok, è con Ganimede. No, ne è indisposto, tutto qui. Non me la conti giusta, Hermes. E che mi vergogno a dirlo. Ti vergogni di me che sono tuo zio. Zeus è appena partorito. No. Sì. Vabbè. Lui? Sì. Ma come? Carbone 2. Non mi sembrava incinto. Perché il feto non era al solito posto. Non dirmi che ha di nuovo partorito dalla testa come per Atena. Carbone, no. Chi è Atena? Carbone 2, Parrotto ti amo. No, dalla coscia. Abbiamo fatto l'amore con Semele. E bravo, quello è capace di ingravidarsi in ogni dove. Ma chi è questa Semele? Carbone, chi è questa Semele? Carbone 2. Parrotto ti amo. Semele è una tebana, una delle figlie di Cadmo. Bravo Hermes, 8. Avevano fatto l'amore e lei è rimasta incinta. E com'è che poi ha partorito lui? Perché era gelosa com'è. Ha convinto Semele perché invocasse Zeus e lo convincesse a manifestarsi in tutta la sua maestà con tuoni, fulmini, saette. Quello obbedisce e si manifesta alla donna con tuoni, fulmini, saette. O non arriva fuoco alla casa e non prende fuoco anche Semele. E allora Zeus mi chiama e mi dice di andare dalla donna, fargli un taglio nel ventre e prendere il feto di 7 mesi. E lui lo fa, me lo porta, io lo faccio, glielo porto, glielo do, lui si fa un taglio nella coscia e ce lo infila dentro. Una incubatrice ambulante per la maternità surrogata. Che sudici, uomini che vogliono fare le mamme. Stavano avanti sti greci. Adesso è entrato nel 9° mese e ha partorito regolarmente. È sfinito dalle doglie. E il bambino dov'è? L'ho portato a Nisa, l'ho data ad allevare alle ninfe. L'ha chiamato Dioniso. E così mio fratello Zeus a questo Dioniso gli viene madre e padre insieme, eh? Che sudi, certo che stavano avanti. Sì. Così pare. Carbone 2. Carbone 2. Zot! Aia! Carbone 2, lui è Zeus. Carbone, dimmi invece chi è lui. Hermes. No, guardalo bene, lo abbiamo già descritto in uno dei primi dialoghi. Come fai a non riconoscerlo? Chi è? Carbone 2, lui è Efesto. Ma come Efesto? Abbiamo detto prima che Efesto è zoppo, ha le tenaglie in mano, le ditacce tutte sporche di fuligine. Questa è una ragazza pulita e carina, ma come si fa a capire che fa Efesto? Carbone, tu sei rimasto fermo alla concezione stanislavskiana dell'attore del teatro. Tu credi ancora nell'attore generico che incarna e personifica il personaggio. Ti piace Robert De Niro che ingrassa 30 kg per interpretare Al Capone, ma c'è stato meglio, col De Stanislavski superato, il teatro è fantasia, immaginazione. Guardati, tu sei basso, grasso, macrocefalo, pelato. Nel teatro dei ruoli all'antica italiana saresti stato condannato ad essere un primario generico, tutta la vita a fare il cameriere. Ma il teatro è fantasia e con la fantasia tu puoi essere un dio, un eroe. Dunque, oggi... lezione di teatro. Allora, vediamo. Zeus lo interpreta... Carbone. Tu Parrotto fai Hermes. Carbone, tu fai Zeus. Io faccio... In teatro io posso essere un eroe! Io faccio Zeus, faccio! Zotto, zotto, zotto! Faccio Zeus, faccio. Atena nacque da Zeus e dalla titanessa Meti. Subito dopo aver fatto l'amore con Meti e avendola messa incinta, Zeus, ricevuta la profezia secondo la quale il figlio di Meti lo avrebbe spodestato, inghiottì la titanessa. Ma poco dopo Zeus fu colto da un terribile mal di capo. Non mi fa male davvero, il teatro è fantasia. Che gli provocava dei dolori lancinanti e in suo aiuto accorse Hermes, il quale indovinò subito la causa della pena. Indusse dunque Efesto a munirsi di un'ascia per aprire una fessura nel cranio di Zeus. Non c'è bisogno dell'ascia, il teatro è fantasia. Un momento. Oh, il teatro è fantasia. Zotto, zotto, zotto! Zotto, zotto, zotto! Zotto! Ah! Ed ecco balzar fuori dalla testa di Zeus Atena, dea delle arti e della sapienza. Bravo Parrotto, 8. Grande interpretazione di Atena. Carbone, recitazione 2. Rappresentazione del dolore troppo stanislaschiana. Andate a fare. Zeus, eccomi qui secondo i tuoi ordini, con la mia scure più affilata, pronta a spaccare in due le rocce con un colpo solo. Dimmi cosa devo fare. Bravo Efesto, vieni, spaccami la testa. Mi stai mettendo alla prova per vedere se sono matto? Dai, cosa devo fare? Mi devi spaccare in due il cranio. Vada su di sciume, te lo spacco io a te, forza! Coraggio, devi colpire senza indugio prima che le doglie mi spacchino il cervello. Ma sei sicuro? Guarda che qui combiniamo un macello. La mia scura è affilata, non mi sembra la più indicata delle levatrici. Tu pensa solo a calare il colpo come si deve, del resto mi occupo io. Vabbè, se è quello che vuoi. Guardate cosa mi tocca fare. Ma cos'è? Una fanciulla in armi. Ah, avevi un bel problema in testa, capo, per questo eri così irritabile. Covavi sotto le meningi una ragazzona armata di tutto punto. Avevi un accampamento in testa e non te ne eri accorto. Ma guarda, guarda come salta, guarda come danza la pirrica. Bravo Parrotto, 8, danza e recitazione 8. Che fantasia. E come scuote lo scudo, come vibra la lancia. E come si è fatta buona in un momento questo fiorellino. Sì, ha gli occhi un po' glauchi, ma fanno pandan con l'elmo. Zeus, perché non mi paghi la mia opera di levatrice dandomela in moglie? Ma io in quanto a me non ho obiezioni, ma credo che voglia rimanere vergine. A questo ci penso io. Tu, dammela in moglie. Atena! Sta troa. Carbone 2. Banchetto! Dunque, oggi interrogazione a sorpresa. Interroghiamo Carbone. Carbone, chi è lui? Prima era Efesto. Carbone 2. Lui è Apollo, il dio del canto. Non c'è nessuna continuità interpretativa tra attore e personaggio. Come sei stanislaschiano, Carbone 2. Dunque, Apollo era anche il dio delle arti e della poesia. Io conosco una poesia a memoria, posso dirla? Carbone. Io, Apollo, dio della poesia, te lo concedo. Lassù, sull'Olimpo, tutti i 12 dei, 28 semidei e gli eroi bramano di sentirti recitare una poesia. Se la dirai bene, sarai assunto in cielo come divino poeta. Sì, Carbone. Io, il provveditore scolastico, il preside e tutto il collegio docenti bramiamo di sentirti recitare una poesia. Se la dirai bene, recupererai tutti e due e sarai promosso. Forza, Carbone. È una poesia di Giovanni Pascoli. Si intitola La cavallina storna. Carbone 2. Dunque, Carbone, chi era la moglie di Efesto? Carbone 2. La moglie di Efesto è Afrodite. Lasciamo stare. Dimmi piuttosto, Carbone, chi è lui? Carbone 2. Lui è Hermes. Perché ridi, Hermes? Perché ho visto un fatto, Apollo, davvero ridicolo. Raccontalo anche a me, dai, così rido anch'io. Afrodite e Ares sono stati colti sul fatto. Efesto li ha beccati insieme e li ha incatenati. E com'è andata? Da un po' di tempo li faceva la posta. Aveva messo delle catene invisibili intorno al letto ed era andata a lavorare in officina. Come lui esce, arriva Ares e si infila a letto con Afrodite. Solo che c'è Elios che li vede e va subito ad avvertire Efesto. Quello arriva e fa scattare la trappola delle catene. Che scena, dovevi vederli. Lei tutta nuda, piena di vergogna, che cerca di coprirsi, e Ares, che prima prova a rompere le catene e poi comincia a supplicare. Uno spettacolo. Efesto? L'ho liberato? Ma che, per ora è lì che chiama a rassegna tutti gli dei per svergognarli, ma devi vedere che spettacolo. Proprio ritegno. Esibire così l'onta subita. Devi vedere come gli sta sopra e gli deride. Certo, c'è da invidiare Ares, che sta lì tutto nudo, aggrovigliolato a quel gran no, pezzo di... No, non fino al punto da giacere in catene. No? Va un po' a vedere, poi mi dirai. Carbone 2, grave insufficienza in senso dell'ironia. Carbone, chi è lui? Zeus. No. Hermes. No. Efesto. No. Aidi. Carbone 2. Parrotto, rispondi tu. Chi è lui? Una terra promessa. Eros. Bravo, Parrotto. Ora. Lei è Afrodite, la più bella tra le dee. In greco è chiamata Ambologera, Nadiomene, Ciprigna, Citeria, Caliglutia, Calibige, Idalia, Melania, Morfo, Timberiucus, Persefastas, Praxis, Filomeda, eccetera, eccetera. Ovvero, in italiano, che non invecchia mai. Ole. Che emerge dal mare. Ole. Dai bei glutei. Ole. Dalle belle natiche. Ole. Sinuosa. Ole. Dal bel diadema. Ole. Sterminatrice di uomini. Lempia. Colei che è una in se stessa. Amante dei genitali. Ole. Afrodite è la dea dell'amore. Esiodo nella Teogonia ci racconta la sua nascita. Urano con una falce evirò suo padre Crono. Zac. I testicoli di Crono caddero in mare. Tling, tling. L'acqua cominciò a ribollire e produsse una bianca schiuma dalla quale emerse Afrodite. Eros, figliolo. Ma ti rendi conto di quello che fai? Non ti accontenti degli uomini, no? Vuoi scombinare tutto anche qui tra noi? Ah. A Zeus l'hai fatto fare di tutto. L'hai trasformato in qualsiasi cosa. Anche il funghetto prataiolo. Zac. Tling. Tling. Selene l'hai tirata giù dal cielo. Elios lo costringe ad attardarsi presso Climene e gli fa dimenticare il suo giro. Ah. Passi quello che fai fare a me, che sono tua madre, ma tu, temerario, a indottorea vecchia com'è. A rimorchiare fanciulli. E adesso sembra ghita di attis il frigio. È talmente impazzita che vaga per Lida in compagnia di leoni e corribanti. Lei che urla dietro ad attis e i corribanti che si tagliano al ritmo di flauti e cembali. Ma se Rea scopre che dietro a tutto questo ci sei tu, ti darà in pasto ai leoni. Tranquilla, mamma, persino quei leoni sono in confidenza ormai. Devi vedere come li salto in groppa, li prendo per la criniera e li guido. Mi fanno un sacco di feste. Alcuni mi prendono la mano, se la mettono in bocca e me la rendono dopo averla leccata. Ma che c'è di male a mostrare quanto sono belle le cose belle? Sta a voi non desiderarle. Subbia, mamma, di che non sei contenta di amare Ares e che lui a sua volta ti ami. Sei tremendo, ma un giorno ti ricorderai delle mie parole. Parrotto, ti amo. Mamma me lo diceva che le donne ti rovinano. Beata a te che non hai più di questi problemi. Carbone 2. Un tuono d'improvviso il ciel percuote. S'alza da terra una sulfurea brezza. Si inalbera potente ad alte quote e il manto al mare poi lieve accarezza. Gagliarda muove al fin le acque cipriote. Qui vi sprofonda con natural destrezza. Ritorna su dalle spume abissali, così Afrodite ebbe i suoi natali. Ma il misterioso ribollir dei sali, che partorì la bella tra le belle, sottenne non per cause naturali, cagion furano e il gesto suo ribelle. Al padre Crono recise i genitali, poi fece fionda con le sue bretelle. Di seme e sangue il mar si tinse tutto, lo scoglionato Crono mise in lutto. Lo scoglionato Crono mise in lutto. Plim, plim. Dunque, oggi interrogazione a sorpresa. Interroghiamo. Carbone. Carbone, chi sono i genitori di Apollo? Carbone 2. Parrotto, rispondi tu. Chi sono i genitori di Apollo? Bravo, Parrotto. 8. Bravo! Sì, bravo, Parrotto. Bravo. Bravo Parrotto, sì Parrotto, bravo Parrotto, sì, sì Parrotto, Parrotto, 8 Parrotto. Che sudicia! Carbone, le migliori famiglie ateniesi mandavano i propri figli nei tiasi e nelle terie affinché i professori più dotati facessero l'amore con loro per iniziarli alla cultura. Anche questo faceva parte della paideia. Mi fa schifo la paideia! La paella buona! Molto bene. Dunque, lui è Apollo. Abbiamo già detto che Apollo è il dio del canto, della poesia e delle arti, ma è anche il dio della misura, dell'ordine e dell'equilibrio. Ha stuprato e ha avuto figli dalle ninfe, Ftia, Marzia, Talia ed Eta. Ed è stato anche con la mamma di Caribante, la mamma di Coronide, la mamma di Asclepio, la mamma di Aristeo e la mamma di Mileto. Gli somigli. Mamma. No. L'unica che non è mai riuscita a possedere è stata Daphne, la quale pur di resistergli si trasformò in alloro. A ripensarci mi stavo. Lui è Dioniso. Il padre di Dioniso è Zeus. La madre invece è incerta, di origine ignota. Alcuni parlano di Demetra, altri di Persefone, alcuni di Lete. Quella dell'acqua. Carbone 2. Ma la versione più comune è quella secondo la quale Zeus giacque con Semele, donna mortale. Dunque Dioniso è il dio dell'ebbrezza e dell'estasi ed è colui che ha donato agli uomini il vino. Bravo! Si sposta sempre a cavallo di una tigre, accompagnato da uno squalo di menadi, donne mezze nude e ubriache. Carbone, dimmi chi erano Ermafrodito, Priapo ed Eros. Più bella cosa, Carbone, non c'è! Sono Sono tutti e tre figli di Afrodite. Dunque, Ermafrodito era un essere metà uomo e metà donna, mentre Eros, lo abbiamo già detto, era un fanciullo che si divertiva a svolazzare e a scoccare frecce in giro a caso per far innamorare le persone, mentre Priapo era un orrendo fanciullo dagli enormi genitali. Ora ascoltiamo il dialogo tra Apollo e Dioniso. Scusi, professoressa. Sì? Noi dei saremo un po' stanchi. Se questo dialogo potessero farlo Carbone e Parrotto, Parrotto ti amo, noi magari andiamo a prendere qualcosa. Sì, professoressa, anche perché il ministro Franceschini ha reso obbligatorio l'insegnamento del teatro a scuola. Bravo il ministro Franceschini! Carbone, uno. Va bene, allora scambiatevi pure di posto. Carbone fa Apollo e Parrotto fa Dioniso. Per essere figli della stessa madre, Eros, Ermafrodito e Priapo sono un po' diversi tra loro, non trovi? Eros è cielo potente, bellissimo, signore di tutto. Ermafrodito invece è un po' ambiguo, effeminato, non si capisce se è maschio o femmina. Quando a Priapo poi, quello è maschio oltre ogni decenza. Ma che dai già ricerca, secondo me non dipende da Afrodite, dipende di padre. E che ogni volta che ha fatto un figlio ha cagnato padre. Qua poi tu vengo uguale, ma anche i figli gemelli sono nati lo stesso padre, perché a te è la storia d'Artemide, uno maschio e un'altra femmina. Sì, ma che c'entra? Noi comunque siamo identici. Ma a parte l'arca e mo pure un po' la voce, secondo me mi va assomigliato proprio. Artemide è dea della guerra e ferisce la gente, tu si udirà poi si apre questa bocca. Comunque, si diceva di Priapo, che te ne pare? Ma siete stufato. Dato che non trovava l'ambasata, doveva passare su giù dalla casa sua. Ma ospitata, abbiamo mangiato assieme, abbiamo bevuto, ci siamo imbriacati e poi abbiamo pigliato suoni in casa alle rivesti. A un certo punto saranno state 2 o 3 a notte. Chilo si scede e si viene a mettere vicino vicino a me. E ci ha provato. Ci ha provato, ah E tu? Ma ci ha fatto una bella risata, che aveva fatto? Hai fatto bene. Come sono sudici sti greci. E come si fa a recitare dei personaggi così schifosi? Guarda che questi greci stanno avanti, se tu che stai sei un po' chiuso ti dovresti aprire. Comunque sai che Priapo tutti i torti non ce li aveva. In che senso? Beh, tu sei belloccio, quindi come sono sudici sti greci? Guarda che tu sei troppo chiuso, ti dovresti aprire, emancipati, apriti. Vabbè, che c'entra? Allora se per questo ci potevi provare pure con te, no? Belle sì belle, tiene capelli lunghe. Il teatro è fantasia. Con te ci potessi provare pure senza sembriacare. Pure io ci volessi provare con te. Ma questa battuta non c'è nel copione. Dioniso non la dice mica. A te stanno i slash che ti hanno guaiato, voglio. Ma ne sei tutto, qua ci sta Eros va a me, Afrodite va a me, Zeus va a me. La professoressa va a me, cavano tu quanto a me. Ma hai voglia a te? No. Sì. Su che ti costa dai, digli di sì. Carbone, cessa di essere preoccupato. Come può andarti peggio di così? Un po' d'affetto ti sei meritato. Siete rimasti soli qui, il due ti è davvero affezionato, due è la tua media scolare, due son le palle che hai perduto in mare. E via Parrotto sì, possiamo provare.